Letture di Radio 24. Tra pochi giorni ci sarà l'opportunità presso le scuderie del Quirinale di Roma per rivivere le emozioni che trasmettono le pale d'altare, i quadri, i ritratti e gli affreschi di uno dei più grandi pittori di tutti i tempi. Stiamo parlando di Lorenzo Lotto, pittore vissuto tra il 1480 e il 1556. Marco Carminati, sulla Domenica del Sole 24 Ore, ne dà una piccola anticipazione. La visione di una mostra dedicata a Lorenzo Lotto, uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, non è semplicemente un'esperienza estetica, è soprattutto un'esperienza emotiva al limite dello sconforto. Il motivo è semplice: le spettacolari pale d'altare uscite dal suo pennello, i ritratti pieni di rebus allusivi, i quadri a soggetto profano vagamente inquietanti, le cervellotiche tarsie e i bizzarri affreschi, altro non sono che un distillato di passione, di sofferenza, di inadeguatezza, di lotta contro le avversità espresse al massimo livello da un artista geniale, inquieto e ramingo, che per questo ci prende alla gola, nonostante i tanti secoli che ci dividono da lui. Tra pochi giorni ci sarà l'opportunità di riprovare queste emozioni. Non accadeva dal 1998-99, gli anni delle memorabili mostre dedicate al pittore veneziano allestite a Bergamo, Washington e Parigi. L'appuntamento è alle scuderie del Quirinale di Roma, che per l'occasione hanno fatto le cose in grande, chiamando a raccolta quasi 60 opere del maestro. Affidata all'attivissimo Giovanni Villa, la mostra, è bene sottolinearlo subito, si basa su un presupposto molto importante: la ricognizione nel territorio italiano di opere lottesche bisognose di recupero, il reperimento dei fondi necessari per metterle in sicurezza, i conseguenti restauri, di cui in rassegna ammiriamo i risultati. Delle 34 opere italiane presenti, 17 sono state restaurate per l'occasione. Dunque siamo di fronte a una mostra eccezionalmente utile, che al tempo stesso ha voluto essere spettacolare, vista l'incredibile adunata di capolavori lotteschi stipati nei due piani delle scuderie. Attorno alle opere recuperate, ad esempio il retabolo di San Domenico e la Trasfigurazione di Recanati, il Polittico di Ponteranica e la Pala dei Carmini di Venezia, si dipana il percorso della rassegna secondo un filo conduttore cronologico ripetuto due volte per banali vincoli di cubature. Il primo piano delle scuderie, coi soffitti più alti, contiene in sequenza alcune grandi pale d'altare, dalla Vergine di Asolo del 1506 alla Madonna del Rosario di Cingoli del 1539, passando per lo strepitoso Polittico di Recanati 1508, la grande pala di San Bernardino al Pignolo di Bergamo 1521, il Polittico di Ponteranica 1525, il colossale San Nicola in Gloria 1529, prestato dalla Chiesa Veneziana dei Carmini. Al piano di sopra, dai soffitti meno alti, si ripercorre di nuovo la vicenda biografica del pittore, questa volta attraverso i quadri da stanza, i mirabili ritratti, le emozionanti tele devozionali, i soggetti a tema profano, ad esempio il Trionfo della Castità dei Principi Rospigliosi Pallavicini, il ritratto di Andrea Odoni della regina Elisabetta d'Inghilterra, il ritratto d'uomo con cappello di feltro da Ottawa, i ritratti dell'Accademia Carrara di Bergamo, di Brera, del Met di New York, della National Gallery di Londra e della Gemälde Gallerie di Berlino. Possiamo dunque per ben due volte attraversare la travagliata esistenza del pittore riflessa nelle sue opere. Lotto era nato a Venezia nel 1480, ma la grande città lagunare non parve accorgersene. Gli esodi avvengono a Treviso e nei dintorni, sotto la ferula del vescovo Rossi, dipingendo ritratti e pale d'altare di eccezionale livello. Lotto freme e attende una migliore occasione che gli viene da Recanati, città presso la quale sorge il santuario papale di Loreto. I domenicani di Recanati gli commissionano un grandioso polittico che viene giustamente notato dagli emissari pontifici. L'affare sembra fatto. Lotto viene convocato a Roma per lavorare nelle stanze di Giulio II in Vaticano. Ma nella stessa impresa è chiamato anche Raffaello Sanzio, che di lì a poco fa licenziare tutti i colleghi e prosegue solo nel lavoro. Per Lotto inizia un'esistenza raminga e includente, segnata da una perenne insoddisfazione umana e professionale, per giunta accompagnata dal sottile dileggio di colleghi diplomaticamente più abili di lui, come Raffaello e Tiziano, che si contendono il favore di papi e imperatori, mentre il timido Lotto, più della bontà buono e più delle virtù virtuoso, così lo sfotte il perfido aretino, è costretto a lavorare in provincia. Le Marche e Bergamo gli offrono momentanei approdi e importanti occasioni di lavoro. Lotto vorrebbe rientrare a Venezia e ci prova, dipingendo qualche opera di rilievo, ma l'accoglienza è tiepida. A un certo punto, quasi in preda alla disperazione, organizza un'asta in Ancona di suoi disegni e dipinti. Il risultato è un flop clamoroso. Non gli resta che cercare la pace. Entra come oblato nel santuario di Loreto. Un piatto di minestra, un po' di compagnia e il conforto della fede gli verranno assicurati fino alla morte, sopraggiunta nel 1556. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La lotta di Lotto per dipingere e vivere, di Marco Carminati, da La Domenica, del Sole 24 Ore, in edicola oggi. Lo scorso 14 febbraio un tribunale ecuadoregno ha dato ragione ai cittadini che vivono nella regione amazzonica di Sucumbíos, nel nord-est dell'Ecuador, in una causa intentata da questi contro il gigante petrolifero Chevron. Il racconto di un'autentica sfida, Davide contro Golia. La sua minuscola casa fatta di fango e paglia si staglia con dignità nella sconfinata grandezza della foresta amazzonica tutti intorno. L'ecuadoregna Maria Aguinda, corpo minuto da India e sguardo acuto e penetrante, si è trasformata in un piccolo Davide e la sua lotta è diventata un simbolo planetario. Il Golia in questione non è la foresta amazzonica, che anzi è stata alleata e motivo principale della strenua lotta della donna. Il gigante che pareva invincibile è il colosso petrolifero Chevron, che ha dovuto capitolare. Lo scorso 14 febbraio un tribunale ecuadoregno ha dato definitivamente voce agli indios della regione amazzonica di Sucumbíos, nel nord-est dell'Ecuador, circa 30.000 persone, che da anni denunciano i gravissimi danni ambientali creati nella regione dalle trivellazioni petrolifere. E la Chevron, che è la seconda maggiore società petrolifera statunitense dopo ExxonMobil, è stata condannata al pagamento di 9,5 miliardi di dollari, uno dei risarcimenti per danni all'ambiente più alti della storia. Un vero e proprio verdetto epocale. Le accuse, del resto, avrebbero inchiodato chiunque. Tra il 1964 e il 90, la Texaco, nel 2001 acquistata dalla Chevron, ha riversato nei fiumi più di 68 miliardi di litri di rifiuti tossici, abbandonando nella foresta almeno 900 pozze piene di residui delle estrazioni petrolifere e ha versato nell'ambiente altri 64 milioni di litri di greggio a causa di rotture accidentali negli oleodotti. Come tutto questo abbia a che vedere con una minuta donna di etnia quechua di 61 anni è la grande sorpresa di questa storia. Maria non parla neanche lo spagnolo e ogni suo discorso è tradotto parola per parola dal genero Guillermo, ma la sua forza e la sua rabbia sono uniche. Oggi come 50 anni fa, quando fu proprio lei tra le prime a rendersi conto che l'arrivo della compagnia petrolifera nel suo villaggio, Rumipamba, anziché portare benessere, distruggeva ogni cosa. All'inizio, racconta, quando i tecnici della Texaco si sono installati, per noi erano una novità, non pensavamo che avrebbero fatto danni. Poi però sono cominciati a venire fuori i pozzi con i residui tossici, e la nostra vita è cambiata. Niente più caccia, né pesca e tante malattie. La piccola India però non è rimasta a guardare. Nel 1993, quando ormai i danni erano sotto gli occhi di tutti, ha creato un comitato di protesta, composto per lo più da altri abitanti come lei, danneggiati nella quotidianità essenziale della loro vita. Il comitato ha denunciato lo sfacelo in atto alla magistratura ecuadoregna, la quale, in omaggio alla forza di questa donna, ha registrato il caso sotto il nome di Maria Aguinda e altri. Devono pagare per gli animali che abbiamo perso, per l'inquinamento dei nostri fiumi e della nostra foresta, dichiara Maria, soddisfatta del risultato finora ottenuto. La Chevron ha già fatto sapere di voler ricorrere in appello, definendo il verdetto illecito e inapplicabile e dichiarando che non pagherà neanche un dollaro della multa. Maria è pronta a continuare la sua lotta, anche perché il risarcimento inizialmente chiesto era di ben 113 miliardi di dollari. Un altro capitolo di questa storia è dunque assicurato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Amazzonia salva, la vittoria di Maria contro la Chevron, di Paolo Manzo, dalla stampa di venerdì 25 febbraio.